Unità 2. Pronuncia. Traccia 20. 1. Brenno. Breno. 2. Enna. Endine. 3. Dobbiaco. Dobrovo. 4. Carrara. Cagliari. 5. Fiume di Nisi, Fiume Freddo. 6. Otranto, Ottama. 7. Cassinazza, Casinina. 8. Matera, Mattarana.